Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette, dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come promesso ieri, continua questo piccolo approfondimento sui gruppi italiani che fanno acquisizioni all'estero. Ieri ci siamo occupati del gruppo Campari, oggi del gruppo Lavazza. Le due notizie sono arrivate praticamente una dopo l'altra. Una ci riferisce chiaramente a Campari in Francia e Lavazza anch'essa in Francia. C'è chi ha scritto e ha detto i francesi fanno lo shopping da noi sui grandi marchi della moda, noi facciamo lo shopping sui marchi, diciamo, del settore agroalimentare, piano, un po' insomma, per ora loro hanno fatto grande shopping sui marchi della nostra moda e noi stiamo facendo qualcosa su quelli del loro settore alimentare. Detto questo, ne parleremo anche come sempre di borsa. Perché lo dico? Perché oggi, in attesa anche della Fed, ma insomma, meno 0,18% Milano, meno 0,20% Parigi, più 0,40% Francoforte e più 0,60% Londra. Devo dire che l'euro è leggermente in indebolimento a 1,10%. Tra i titoli, Fiat Chrysler più 2,5%, Finmeccanica più 1,90%, Eni più 1,5% come Unipol. L'1,30% lo guadagna Campari, l'1% rialzo di Unipol SAI. E Ferragamo, ma anche Ferrari. Male oggi le banche, non malissimo. Banco Popolare meno 4%, Banca Mediolanum meno 2%, Intesa San Paolo meno 2% e UbiBank meno 1,60%. Meno 1% Popolare Emilia Romagna, più contenuti i cali delle altre. Cito anche Luxottica, però, che perde l'1,90%, Moncler meno 1%, CNH Industrial meno 1,13%. Dicevo, oltre al tema che riguarda le acquisizioni italiane all'estero, sentendo anche, insomma, cercando di capire che cosa manca delle volte al nostro paese, delle volte manca anche la fiducia, ma per quello che riguarda l'altro tema di oggi, beh, insomma, la super borsa, ne avevamo già parlato di Francoforte, Londra. Altro che Brexit, per quello che riguarda i mercati finanziari siamo al brain, se potremmo dire così, non Brexit, e da questo punto di vista l'operazione si farà, è stata ufficializzata la proposta d'accordo, riguarda anche Milano, perché la borsa di Londra, che controlla anche la borsa italiana, e quella di Francoforte si fonderanno entro al più tardi il primo trimestre del 2017. Gli azionisti della London Stock Exchange dovrebbero avere il 45% del nuovo gruppo, 45,6%, e quelli di Deutsche Börse il 54%. L'amministratore delegato sarebbe l'attuale amministratore delegato della borsa tedesca, e quindi Carsten Kengeter, mentre la presidenza verrebbe assegnata al presidente della borsa britannica Donald Brydon. Ma al di là delle cariche, della governance, come si dice in gergo, la cosa importante da capire è cosa vorrà dire questa fusione e perché si fa questa fusione. Qualcuno mi scrive di Lactalis Parmalat. Sì, è vero, i francesi sono comprati la Parmalat in una situazione un po' particolare, in un'azienda che andava venduta, che era stata parzialmente risanata, e comunque è stato un peccato non riuscire a trovare una cordata anche in quel caso di imprenditori italiani. Il principio è sempre il solito: se un gruppo italiano resta in Italia è meglio, noi tifiamo sempre prima per gli italiani. Dopodiché ben vengono gli investimenti esteri se non vi sono investimenti equivalenti italiani, perché non si può sempre lamentare il fatto che mancano gli investimenti degli stranieri, siamo poco attrattivi, poi quando vengono a comprare qualcosa ci lamentiamo che vengono a comprare qualcosa. 349-238-6666 per sms, whatsapp e la pagina poi di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo dal petrolio, perché il petrolio lentamente ma continua un po' a risalire a $37,6 il barile, ha fatto un altro più 3% oggi, poi magari lo perde il giorno dopo. Però c'è stato un leggero effetto rispetto ai minimi intorno ai 29, 30, $31 al barile del fatto che i paesi produttori siano quasi tutti ormai a favore del congelamento della produzione. Oggi infatti è stato confermato che il prossimo 17 aprile si terrà a Doha il vertice dei paesi produttori, lo ha annunciato il ministro del petrolio del Qatar. E tra l'altro sono circa 15 paesi OPEC e non OPEC che vi parteciperanno, in rappresentanza diciamo del 73% della produzione mondiale di greggio, e quindi sono tutti questi 15 sono a favore del congelamento della produzione dopo l'accordo raggiunto tra Russia, Arabia Saudita, Venezuela e Qatar, quello di metà febbraio. Allora, dal petrolio dei paesi produttori alla Cina invece, non ci sono motivi tali da impedire alla Cina di raggiungere i target di crescita per quest'anno, così il premier cinese Li Keqiang. Pechino stima, continua a stimare una crescita quest'anno tra il 6,5% e il 7%, ma facciamo notare che il 2015 si è chiuso con il livello più basso degli ultimi 25 anni, un più 6,9%. Ancora per quello che riguarda molti di voi mi stanno scrivendo sulla Federal Reserve. Allora, alle 19 di oggi, se ben ricordo, il Federal Open Market Committee, che è riunito da ieri, diffonderà il comunicato contenente le decisioni di politica monetaria, e poi verrà spiegata la decisione dal presidente, dalla governatrice Janet Yellen, con la speranza che il mercato reagisca bene. Allora, le probabilità che i tassi vengano rialzati in America sono irrisorie, 4% sul totale. Il 95% degli operatori ritiene che il costo del denaro resterà allo 0,25, tra lo 0,25 e lo 0,5%, ossia il primo rialzo dai tempi dello scoppio della crisi che fu effettuato lo scorso dicembre. E ecco perché sarà più importante non tanto il livello del tasso, ma quello che dirà la Yellen dopo per giustificare questa decisione, perché farà capire se da questo punto di vista i tassi verranno mantenuti a questo livello a lungo, a medio termine, e quindi prima o dopo l'estate. Questa è la scommessa un po' degli operatori. Andiamo avanti con la finanziaria britannica. La crescita frena, oggi ne ha parlato lo stesso cancelliere dello scacchiere, quindi il ministro dell'economia britannico George Osborne, poi più tardi sentiremo alcuni di questi passaggi. Anche l'economia britannica rallenta, ha presentato la finanziaria per il 2016, comunque rallenta, ma si mantiene su livelli elevati rispetto ai nostri, ossia il PIL britannico dovrebbe crescere al 2% quest'anno, certo era atteso al 2,4, e al 2,2 l'anno prossimo contro il 2,5 previsto. E poi Osborne, in merito alla Brexit, ha detto: beh, se usciamo dall'Unione Europea ci sono dei grossi rischi per la nostra economia, si aprirebbe una fase di incertezza destinata ad aggiungersi alle nubi sul rallentamento della crescita che già si profilano all'orizzonte. Ancora su questo, ultimo i due dati che riguardano invece, anzi un dato, la Germania. Oggi le ferrovie tedesche hanno chiuso, hanno presentato il bilancio del 2015 che si è chiuso con un forte perdite per un ammontare di 1 miliardo e 300 milioni. È il primo deficit da 12 anni a questa parte. Ha dovuto ristrutturare e ha motivato queste perdite con la ristrutturazione del gruppo in corso. Faccio notare che l'anno scorso Deutsche Bahn, che sono le ferrovie dello Stato tedesche, aveva chiuso nel 2014 con utili per 988 milioni di euro. Allora, mi scrivono alcuni ascoltatori: guardi che però investire in Italia è diverso da comprare i nostri marchi. Beh, un attimo, perché l'esperienza che abbiamo, bisogna dirla tutta, è che, visto che poi si parla dei francesi sulla moda soprattutto, ma non solo, è che quando vengono comprati i nostri marchi di valore, non solo viene confermata la produzione in Italia, ma addirittura vengono fatti anche investimenti. Pensate al gruppo, a quello che ha fatto Louis Vuitton, ma non solo, cioè tutti gli acquisti, le acquisizioni nel settore moda non hanno visto la chiusura in questi campi di eccellenza di nessun impianto, ma casomai gli investimenti, cioè nessuno compra per distruggere un marchio. Altra cosa, altro ragionamento dovremmo farlo in quello che è successo in questi anni, penso per esempio al settore acciaio e alluminio, penso all'Alcoa, penso agli investimenti americani di cui abbiamo parlato. Lì è un po' diverso, lì ha a che fare con multinazionali veramente che, ahimè, hanno pochi problemi a chiudere un impianto e aprirne un altro, o rinforzare un impianto in un'altra parte del mondo. Ma quando parliamo di grosso valore aggiunto come l'agroalimentare, come la moda, io non ho ricordi di qualcuno che compra un marchio importante italiano per poi distruggerlo a vantaggio dei propri, o comunque per voler portare tutto quanto in Francia. Non ho ricordi. Allora, vedo molti messaggi, adesso ci arriviamo. Ducati, Lamborghini, giusto? Vi sembra che la Ducati e la Lamborghini siano state distrutte dalle acquisizioni estere? Non mi sembra proprio, mi sembra che la Ducati, sia la Ducati che la Lamborghini abbiano ricevuto investimenti. Comunque, andiamo invece all'intervento in Italia del Premier Matteo Renzi, in aula alla Camera. Ha parlato anche di Germania. Non posso nascondervi che è un tema che ben prima che arrivasse alla Presidenza del Consiglio noi condividevamo in pieno, cioè quello che la Germania non può continuare ad avere un surplus commerciale così alto, è previsto dall'accordo di Maastricht, non può avere deficit troppo alti sopra il 3%, non può avere avanzi di bilancio troppo alti, altrimenti è una famiglia completamente sgangherata, con qualcuno che spende più di quanto guadagna e qualcuno che non spende neanche se potrebbe. E questo è il passaggio in cui ha citato Renzi la necessità di abbassare il surplus commerciale della Germania. Se vogliamo davvero rimettere in moto questo paese, la Germania e gli altri paesi devono ridurre il loro surplus commerciale. Oggi è al 7,6 in Germania. Se la Germania arrivasse ai limiti di legge, ai limiti europei, che sono il 6%, sarebbe qualcosa come a naso 38-40 miliardi di euro di investimenti da fare in Germania. Vale per l'Olanda, vale per gli altri paesi e vale anche da parte nostra nel riuscire finalmente a rendere questa agenda non come un'agenda spot sporadica, ma come un disegno organico che è iniziato 2 anni fa e che sta provando, cambiando l'Italia, a cambiare l'Europa. E poi la parte che riguarda la Banca Centrale Europea e il Fiscal Compact. Andiamo così, poi arriveremo anche al primo tema. Però, insomma, Renzi ha detto che le risposte della Banca Centrale Europea meritano il nostro sostegno, ma non bastano gli stimoli di natura finanziaria. Viviamo una stagione di deflazione che è impressionante. La risposta che ha dato la Banca Centrale Europea merita tutto il nostro sostegno e il nostro appoggio. E tuttavia, mentre diciamo questo, dobbiamo riconoscerci reciprocamente che non può bastare soltanto uno stimolo di natura monetaria. Non basta, non è sufficiente. Non importa aver letto centinaia di manuali di economia per capire che la politica della Banca Centrale Europea è molto utile, ma non è sufficiente a far ripartire non soltanto i consumi, il prezzo, l'inflazione, ma non è sufficiente a far recuperare competitività al sistema europeo. E allora ci sono 2 questioni che sono l'ABC. Il primo, mettere più soldi nelle tasche abbassando le tasse. Allora, partiamo bene oggi. Barisoni, lei spesso riafferma la sua ignoranza finanziaria, il PIL cinese in rialzo del 6%, consideri la base di questo aumento, quindi il valore assoluto. E allora? Radio 24, Focus Economia, sceglie il conduttore per la sua bella voce o è perché è raccomandato? Ma guardi, no, cioè anche per l'avvenenza fisica, adesso non si preoccupi, faccia lei per la voce, per la raccomandazione, per l'avvenenza fisica, ma sa che io non ho capito cosa vuol dire? Adesso lei che invece ha tutto questo sapere finanziario, ho capito la base, qualunque PIL si considera sulla base, ma se le abbiamo spiegato, visto che forse si è preso qualche puntata, che in Cina sotto il 7%, ma non lo dico io che sono un ignorante finanziario, lo dice il governo cinese, e non li offenda troppo perché quelli non sono come me che ironizzano, poi le fanno pagare pure la pallottola. Allora dico, il governo cinese dice che sotto il 7% c'è la recessione, non riesce a trasferire, a fare il trasferimento campagne e città, che è garanzia. Sono circa 15 milioni di cinesi che ogni anno si trasferivano dalle campagne alla città. Quindi sotto il 7% la Cina ha un problema come modello di sviluppo. La base di questo aumento vale per qualunque PIL, vale anche per il PIL di San Marino la base, ma non è questo il punto, è il PIL pro capita. Allora, sai che non capisco veramente il ragionamento? Comunque, le assicuro, mi hanno scelto per la bella voce, per l'avvenenza fisica e altre doti che, insomma, non posso parlare in questo, di cui non posso parlare in questo programma. Allora, andiamo avanti con Renzi. Il fiscal compact, di cui non sta parlando più nessuno, quindi inviterei anche Renzi a non parlare, perché tutti quanti stiamo dimenticando sto fiscal compact. Meno male, perché sarebbe l'ennesima botta, anzi forse quella finale su questa timidissima ripresa europea. Il fiscal compact ha comportato un danno alla direzione politica ed economica dell'Europa e anche dell'Italia. La flessibilità non è un cadeau, non è un regalo, vogliamo spostare la rotta. Il fiscal compact e le sue declinazioni hanno comportato, a mio giudizio, a nostro giudizio, un danno alla direzione politica economica dell'Europa, non dell'Italia. Nei primi mesi del nostro mandato, sfruttando il semestre, siamo riusciti a affermare un principio di flessibilità. Il principio della flessibilità e il principio degli investimenti sono stati letti nella stampa, in particolar modo italiana, e nel dibattito politico, in particolar modo italiano, come una richiesta dell'Italia o, se volete, una concessione, come appunto si trattasse di una elargizione octroyée, secondo i principi del francesi del tempo. Come se ci fosse dunque stato fatto un regalo, un gentile cadeau per la nostra partecipazione. Noi pensiamo invece che questi due elementi, il tema della flessibilità e il tema degli investimenti, siano la chiave per cambiare la politica economica in Europa. Vabbè, poi un altro passaggio che domani probabilmente farà titolo sui giornali, anche perché, allora, noi critichiamo il Presidente del Consiglio per tante cose, altre cose le apprezziamo, fatti nostri, però una cosa gli va riconosciuta, che quanto a frasi ad effetto è abbastanza imbattibile, perché questa, la frase riferita ai profughi, dice, ma insomma, l'Europa va su Marte, ed è riferimento alla notizia della missione su Marte, che è di tecnologia, per buona parte tecnologia europea. L'Europa riesce ad andare su Marte, ma si ferma a Idomeni, dove c'è il confine tra Grecia e Macedonia, dove andranno anche le nostre inviate, e vede un bambino costretto a essere lavato dalla propria mamma con una bottiglia d'acqua, perché quel bambino è stato partorito in un campo profughi. Beh, l'immagine di un'Europa che sa andare su Marte ma non sa risolvere il problema dei migranti, obiettivamente è un'immagine efficace. Così chi dirà, ecco che lei lecca Renzi, adesso è contento, va bene? Allora, 349-238-6666 per gli sms e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo dalle acquisizioni degli ultimi giorni, e quindi il tema è il Made in Italy, che riesce a essere, oltre che preda, non mi piace tantissimo come termine, comunque preda, riesce a essere anche predatore. We'll be right back. Allora, Campari, ne abbiamo parlato ieri, che si è bevuta, diciamo così, il Grand Marnier. Lavazza l'operazione l'ha annunciata prima e ha rilevato infatti per 700 milioni di euro la francese Carte Noire, che è leader in Francia, con una quota del 20% in tutto il mercato retail, cioè nella vendita, diciamo, di caffè, non solo ai grossisti. La Francia diventerà, se ho ben capito, il secondo mercato per Lavazza dopo l'Italia. Ma chiediamolo direttamente a Antonio Baravalle, che è l'amministratore delegato di Lavazza. Buonasera, dottor Baravalle. Buonasera a tutti. E grazie anche a il professor Giuliano Noci, che insegna al Politecnico di Milano ed è tra l'altro prorettore del Polo Territoriale Cinese. Buonasera, Noci. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Mi scusi, poi parlo di Lavazza, ma cos'è il Polo Territoriale Cinese? È sostanzialmente rappresentativo della presenza fisica che il Politecnico di Milano ha in alcune città della Cina, okay. E così come le imprese internazionalizzano anche le università italiane. Ecco, no, bene. Allora, dottor Baravalle, in primo luogo l'obiettivo dell'operazione, chiaro che lo capiamo anche noi, acquisire una quota fondamentale di un mercato, ma perché in Francia e perché Carte Noire? Ma semplicemente perché la Francia è il quarto mercato al mondo del consumo del caffè, quindi se andiamo in ordine abbiamo il Brasile, gli Stati Uniti, poi la Germania, poi la Francia e poi l'Italia. Quindi quarto mercato al mondo e Carte Noire è il leader del mercato con oltre il 20%, quindi vuol dire, considerando la concentrazione del trade francese, la grande difficoltà ad avere una quota rilevante là, vuol dire prendere il numero uno del mercato nel quarto mercato al mondo. Ha avuto resistenze? Perché non sappiamo che, insomma, il luogo comune magari è che in Francia sia molto difficile comprare marchi francesi, lo chauvinismo inteso come nazionalismo nasce, se non ricordo male, da Chauvin, che era un francese, prego. Ma in realtà no, perché il marchio Carte Noire faceva già parte di una multinazionale americana, ah, ecco, Mondelez, solo per questo. In realtà da questo punto di vista è un marchio francese nelle mani di una multinazionale americana, quindi noi abbiamo rilevato direttamente da loro, però devo dire che sugli aspetti invece di stabilimento francese, dove abbiamo avuto rapporti con diciamo le istituzioni locali, non abbiamo trovato assolutamente nessuna difficoltà, anzi grande interesse a lavorare qualcuno che fosse industriale, non fondi di private equity. L'obiettivo, allora, voi avete, se ho ben capito, Carte Noire ha diciamo un'operatività molto simile alla Lavazza in Italia. Sì, diciamo che sono molto simili. Cioè caffè macinato, cialde, capsule. Locale. Sì, che è tutto esattamente abbastanza similare a noi, ma con un posizionamento molto diverso, perché loro sono in Francia sono quasi percepiti come un marchio di lusso, mentre noi siamo il caffè tradizionale italiano e loro sono un brand molto, molto vicino quasi al mondo della moda, un piccolo gioiello locale. Senta, voi integrerete anche i 300 dipendenti dell'azienda, lo stabilimento è a Laveur Rune, nel sud. C'è la sede è a Parigi, poi abbiamo nel sud, abbiamo preso anche lo stabilimento che faceva parte proprio del perimetro dell'affare, e quindi sono 160 dipendenti in Francia e 140 dipendenti in stabilimento alla Verona, e poi noi avevamo già altri 200 dipendenti a Parigi, già di Lavazza France, che era la prima, certo, il primo mercato di sbocco aperto nell'82. Allora, dopo il meteo, le vorrei chiedere ancora due cose, partendo da un cruccio che ho da anni ormai, nel senso che, col massimo rispetto per il gruppo Nestlé, non tifiamo per nessuno, però ci sono quelle cose che a me un po' da italiano dispiacciono. Mi dispiace vedere che noi, che abbiamo inventato la moda a basso costo, Stefanel e Benetton, adesso, diciamo, ce l'hanno scippata come quota di mercato Zara ed H&M, fummo noi a inventare questo, e mi è dispiaciuto personalmente vedere che noi, che siamo la patria del caffè, delle macchine da caffè, ci siamo fatti, diciamo, in parte fregare all'inizio e anche dopo l'inizio il mercato dalla Nestlé. Poi siete arrivati voi, so che fate le cialde, le fate anche biodegradabili, se ho ben visto, poi magari me lo racconta, e c'è Illy, così, però insomma, diciamo tutta, no? Anche voi ormai le cialde si chiamano compatibili con con Nespresso, tanto ormai sono riusciti a mettere la zeppa in quel mercato e a occupare una posizione dominante. Vorrei capire che cosa manca ogni tanto all'Italia per fare quel salto che ti permetta di passare dall'eccellenza anche alla posizione dominante, ma in senso buono. Dopo il meteo. Focus Economia. ...17:40. Allora, dottor Baravalle, che cos'è che manca? Adesso non voglio sapere il caso vostro specifico, ma anche lei non ha un po' così di, non dico invidia, ma di amarezza nel vedere che alcuni settori in cui, poi lo chiederò anche a noi, cioè ci mancherebbe, ma in cui per primi eravamo leader, per primi ci siamo inventati e poi ci hanno superato i grandi, nel caso della Nestlé, il grande colosso mondiale dell'alimentare, nel caso di Zara e H&M invece sono nati dopo. Ma cos'è che manca a noi per fare il salto delle volte? Ma forse quello che penso che sia mancato in passato è un po' una visione un pochino più di sistema rispetto a una visione solamente guidata, voglio dire, dalla singola azienda, dalla singola marca, perché se uno, per carità, non è un mondo mio, quindi lo guardo da fuori, ma se uno guarda quello che hanno fatto gruppi come Levmash nel lusso, nella moda, rispetto a quello che potevano fare gruppi in Italia, evidentemente è mancata quella volontà di mettere un po' a fattor comune le possibilità di fare sistema rispetto alla volontà di portare avanti il singolo orticello, no? Questa è forse la cosa che è veramente mancata. Anche se guardi, lo scrivono anche gli ascoltatori, che ne risponde alla mia domanda. Siamo molto bravi a fare i vittimisti, non facciamo sistema. Sto guardando le risposte che arrivano su WhatsApp. Il vittimismo è che è chiaro che ci sono degli interessi comuni dove alla fine bisogna magari in certi sistemi avere il coraggio di fare un leggero passo indietro, ma permettere al fattor comune fare un passo più importante in avanti tutti insieme. Certo. Forse un po' questo quello che ho visto. Io ho lavorato anni e anni prima di raggiungere questo mondo qua, prima nell'automotive, prima in Diageo, che è la società numero uno negli spirits, nelle bevande alcoliche, quindi ho visto tanti marchi che gli italiani del mondo del beverage, che alla fine hanno dovuto scegliere a un certo momento di entrare in grandi gruppi multinazionali per trovare la propria capacità distributiva. Quindi è proprio un percorso che purtroppo è un treno che è mancato anni e anni fa, perché il treno del consolidamento è partito quasi ovunque nelle grandi categorie, e in Italia sono rimasti in pochi a cercare, certo, di difendersi e venirne fuori. Sì, poi c'è anche un atteggiamento, non dico dappertutto, però in alcuni casi l'abbiamo visto, piuttosto che tu guadagni un po' di più, meglio che moriamo in due, la dico male, ma insomma l'abbiamo visto capitare, ahimè, anche in alcuni modelli di impresa. Quindi lei veniva prima dal mondo degli spirits, in puto a caso l'altra grande acquisizione arriva da lì, mi riferisco a Campari su Grand Marnier, ed è finita la Lavazza. Lei è perfetto per fare il caffè corretto, lo sa, no? Cioè, pronto. Ho mandato un messaggio a Concevic, che tra l'altro è nel board della Lavazza, perché io ho incominciato lavorando nella mia vita lavorativa facendo il brand manager di Grand Marnier, quindi ho mandato subito un messaggino a Concevic dicendo: guarda, possiamo fare il caffè corretto anche noi. Beh, con Grand Marnier, però lì, con massimo rispetto per Grand Marnier, non è che sia una grande idea, sarà un po' d'arancia. Io da italiano devo dire che il caffè corretto si fa con la grappa. Altissimo valore. Ah beh, no, sicuramente. Senta, l'ultima cosa, invece, voi diventate a questo punto il quinto player mondiale, dietro a Nestlé, Jab Holding, Smuckers e Starbucks. Starbucks è quella più conosciuta. Ma ci potrà mai essere, come dicono alcuni ascoltatori, un'operazione vostra su Starbucks, cioè che anche noi andiamo a comprare qualcosa in America? O adesso chiaramente i numeri che le vede di Starbucks sono quelli che fanno riferimento alla vendita di caffè, quindi non c'è tutta la parte di retailing, perché la società è una società nettamente più grande. Da questo punto di vista, noi sappiamo che il mercato americano è il mercato numero uno come potenzialità. Quel gruppo numero due che lei ha citato, JD, è una. Sono quelli che stanno consolidando il mondo delle birre, no? Sono quelli che stanno, certo, facendo la fusione di AB InBev con Sam Miller. Quindi noi dovevamo fare una scelta: o quella di subire passivamente cosa sta succedendo nel caffè, oppure provare a farlo attivamente. Questo significherà anche che dovremmo ragionare per delle operazioni di sicuro importanti sul mercato americano in futuro, perché essendo il mercato numero uno al mondo per caffè per il valore, perché chiaramente è un posizionamento di prezzo molto elevato, oggi noi abbiamo un ruolo come Lavazza che è ancora limitato. Se si vuole veramente fare il salto dovremmo anche lì fare qualcosa di diverso, però come dico io, una cosa alla volta, perché adesso dobbiamo far capire ai nostri azionisti che hanno speso bene i propri soldi. Ecco, tra l'altro io citavo, vedo che molti anche ascoltatori sono sensibili al tema, no, vedo anche il messaggio che fanno ridere, al tema delle cialde biodegradabili, sì. Come si dice, compostibile, non mi ricordo più il termine, vabbè, compostabile, ecco, mi scusi. Sì. Voi l'avete lanciate, no, perché il tema vedo che è molto sentito, anche perché le cialde di altri gruppi e anche concorrenti, visto che citavo Nespresso come leader, li cito anche, non sono invece biodegradabili. C'è interesse per questo o l'avete fatto più che altro, diciamo, per come operazione di marketing e no, così? Noi riteniamo che oggi quello che si vede oggi sul mercato è un primo step dell'evoluzione del mercato, ma l'evoluzione futura dovrà tenere al centro la sostenibilità. Quindi non è un'operazione puramente così di marketing, è un'operazione che dovrà diventare sempre più industriale. Come tutte le innovazioni industriali, la difficoltà è il passaggio a livello proprio industriale tra quello che è l'innovazione a quello che deve diventare poi il 100% della tua produzione, però la direzione è quella lì. Ma lei si attende di fare altre acquisizioni anche, oppure magari piccole, mirate? Campari è cresciuta così ogni due anni, compra qualcosa, molto scelto, prima Wild Turkey, poi adesso sì. Grand Marnier, oppure vi fermate? No, noi abbiamo il nostro obiettivo, come dicevo, abbiamo una soglia a medio termine che è superare i 2 miliardi di fatturato, quello che riteniamo essere una soglia di sopravvivenza dimensionale per potercela giocare. Noi amiamo dire che vogliamo sederci. Attualmente siete a 1,4 miliardi, giusto? Sì, però già con l'acquisizione di Carnoir arriveremo a 1,650 miliardi, 1,7 miliardi, quindi abbiamo un passo al 2020 per arrivare a 2 miliardi. L'obiettivo nostro, diciamo, è sederci al tavolo del ristorante, dei grandi player del caffè, guardando con loro il menù e non diventando il boccone numero uno del menù. Per far questo bisogna crescere. Quindi direi che da un lato investendo solamente sulla Lavazza, che riteniamo essere il brand potenzialmente globale, poi se troviamo, come abbiamo fatto in Francia, qualche gioiello locale importante che ci può aiutare a costruire una piattaforma regionale più importante, la faremo sicuramente. Quindi questo per dire, stiamo guardando tante cose, ma nel breve, ripeto, i nostri azionisti hanno investito tra acquisizioni e investimenti commerciali che abbiamo incrementato 1 miliardo negli ultimi 12 mesi. Sì. E il punto adesso è dimostrargli che la fiducia è ben risposta. Bene, no, bene. Tra l'altro voi avete puntato ad avere il 70% del vostro fatturato, che i due terzi venga fatto all'estero. Ho visto che la quota estera è già al 55%, però al netto prima di integrare con Carnoir già saremo al 62-64%. Avete fatto più 20% negli Stati Uniti, più 19% in Gran Bretagna, più 11% in Germania e anche più 10% in Francia. Professor Noci, dopo il traffico, i consigli a tutti gli altri imprenditori che ci stanno scrivendo, alla luce anche di quanto ricordava adesso l'amministratore legato di Lavazza Antonio Baravalle, che ringrazio. Traffico prima. Focus Economia. Sebastiano, tu ne connais pas le marnissimo caffè espresso avec du Grand Marnier. Ci scrivono anche in francese. Cosa? Sarà qualcuno in Val d'Aosta, perché non penso che le frequenze da 24 arrivino al di là delle Alpi. No, non conosco Grand Marnier con il caffè, ma va bene, adesso lo potremo farlo, perché Grand Marnier è italiano e lo potrei fare anche con Carte Noir, con il leader delle cialde in Francia. Allora, professor Noci, tornando a essere seri, Baravalle diceva, insomma, l'incapacità di far sistema lo sappiamo, però insomma, qualcosa si sta muovendo, forse più le gazzelle, come si chiamano, questa pattuglia di 20-25 mila imprese che si sono assolutamente internazionalizzate in questi anni, sta capendo alcuni meccanismi, o sono troppo ottimista io? Sono troppo renziano? Sono assolutamente d'accordo con lei. Ci sono segnali straordinari. Questi due casi sono iniezioni di fiducia incredibili. Ma girando per conto del Politecnico presso queste gazzelle, anche l'altro ieri in una di queste nel distretto di Bologna, si respira un'aria nuova. Due cose. Il primo, la comprensione che della necessità di innovare e di innovare in un modo nuovo, cioè il tema dell'ecosistema, cioè da soli si fa sempre più fatica a sviluppare innovazioni di successo su scala globale e si comincia a ragionare finalmente in una logica di sistema. Il secondo elemento, che dal mio punto di vista ha rappresentato un vincolo nel passato, si comincia a capire e a non mistificare quella che era il cosiddetto concetto di identità italiana. I nostri imprenditori hanno assunto che nel nome del Made in Italy si dovesse continuamente autoproiettarci, essere autoreferenziali rispetto all'Italia. In realtà il mondo è globale, i clienti sono globali e possiamo rimanere italiani anche acquisendo, come dimostrano questi casi, brand stranieri. Marchi stranieri, perché l'italianità è un modo di concepire il prodotto, è un modo di concepire un'esperienza sul mercato. Non è necessariamente la localizzazione di un prodotto sul territorio italiano. Senta, e quello che manca invece, visto che lei questi fenomeni li studia ancora da tempo, ha ragione nel dire che noi parliamo dei marchi più grossi e delle operazioni più grosse, ma è verissimo che ci sono state decine e decine di operazioni di ammontare minore, dove in realtà anche lì la logica era la stessa. Siccome tu stai sui mercati internazionali, capisci che o cresci o se no rischi, no? Rischi, perché la differenza è sempre tra piccolo e nano. Piccolo è uno che sta bene nelle sue dimensioni fisiologiche, è fornitore, subfornitore nella catena del valore. Nano è uno che può avere anche 400-500 dipendenti, ma se il tuo concorrente ne ha 5.000 sei nano, non è la dimensione in sé. È assolutamente così, e direi che dal mio punto di vista sta emergendo un fenomeno piuttosto interessante, che è quello della comprensione in queste gazzelle che internazionalizzare la produzione, ad esempio, non è un modo per inseguire una corsa che non ha senso di riduzione dei costi. Cioè portare la fabbrica all'estero non è... Prego. No, esatto, portare la fabbrica all'estero non significa, è sbagliato portarla per ridurre i costi, ma invece deve essere sviluppata in una logica di asservimento del mercato locale che magari richiede per prestazioni, per fattori critici di successo, una presenza in loco. Oh, diciamola anche tutta, questo sta emergendo. Negli anni, a fine anni 90, inizio anni 2000, si portavano le fabbriche, in alcuni casi in Romania, principalmente, anzi esclusivamente per i costi, non è che ci fosse un mercato rumeno per la meccanica, per il tessile, per il calzatore, però i costi erano bassissimi. Quando è arrivata la Cina, siccome un operaio rumeno costava in media un quinto di quello italiano, ma quello cinese poi costava un quinto di quello rumeno, allora si è capito che tu un conto è delocalizzare all'estero, un conto è internazionalizzare, cioè se tu porti la fabbrica in Cina perché hai un mercato in Cina o in Vietnam o in Russia o in Brasile, dove vuoi, o in Asia, allora ha un senso e stai internazionalizzando. Se la porti lì solo per vendere in Europa a un costo più basso, nessuno ha mai avuto un gran successo su questo. È assolutamente così, ottenendo lo straordinario risultato di in realtà riprodurre conoscenza e dare conoscenza ad attori locali che inevitabilmente poi, grazie a fattori di contesto, riescono a essere migliori di noi. E in secondo luogo andando in controtendenza rispetto al percepito di mercato, perché ovunque nel mondo l'italianità significa eccellenza, quindi è molto meglio concentrarsi su una logica di prodotto su scala globale che punti alla qualità che andare a ricercare opportunità di costo, anche perché c'è sempre qualcuno che costa meno di te. C'è sempre un cinese, diciamo, ogni tanto, c'è esattamente sempre un cinese più cinese dell'altro. Resti con noi, Noci, perché vorrei capire però in questo... analisi positiva, perché ripeto, la pattuglia di gazzelle, si calcola che siano 20-25 mila imprese in Italia altamente internazionalizzate nei vari settori, questa cosa la sta capendo. Vorrei capire cosa non succede invece e cosa non capiscono le altre. Ci segnalano gli ascoltatori che la radio si sente anche a Nizza e sono contento, adesso non l'avevo mai verificato, non frequento spesso, diciamo, la Costa Azzurra. E invece alcuni mi scrivono: guardi che la radio si ascolta anche via internet. Ho detto una cavolata, infatti ha ragione, c'è chi ci ascolta anche dalla Spagna e dal Brasile, mi scrive un ascoltatore, via podcast ovviamente. 349-238-6666 per gli sms e WhatsApp, e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, sì, via podcast quando funziona. GR24. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Secchi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digital radio. Focus Economia. Allora, oggi va così. Abbiamo detto che molti ascoltatori ci ascoltano anche all'estero, alcuni chiaramente in diretta perché se non potevano scrivere, altri in podcast quando il podcast funziona, perché ogni tanto, ma lo stiamo sistemando, dovrebbe essere praticamente ormai sistemato, ogni tanto abbiamo avuto problemi sul podcast. Non ho detto che ci ascoltano in diretta col podcast, lo dico chi mi sta criticando su questo. È ovvio che se vuoi ascoltarci in diretta ci ascolti con il con lo streaming live. Poi ringrazio chi ci dice che Radio 24 è nelle cuffie di tutti gli italiani della City di Londra. Adesso troppa grazia. Immagino che la comunità degli italiani anche nella City di Londra ascolti Radio 24. Però, professor Noci, tornando a noi, dopo aver ricordato questo movimento quasi carsico, perché poi fa poca notizia, ma che ha portato decine di migliaia di imprese italiane a internazionalizzarsi, quindi ad avere 2/3 e delle volte anche di più del fatturato all'estero, da metà a 2/3 del fatturato all'estero, andando a produrre nei mercati dove serve produrre per il mercato, non per il basso costo e quindi per poi reimportare in Italia, ma per stare su quei mercati, che siano quelli asiatici, sudamericani o quant'altro, le chiedo che cosa manca ancora, visto che lei analizza da sempre questa tentativa, capacità, delle volte anche incapacità delle imprese di internazionalizzarsi. Guardi, al di là della tavica appunto già puntualizzata, incapacità e non voglia di far sistema, io credo che gli imprenditori italiani e le imprese italiane si siano molto spesso appiattite su una dimensione di eccellenza produttiva, cioè con l'eccellenza di prodotto io riesco a fare tutto. Nella realtà due sono gli elementi che sono stati poco considerati da quelle imprese che non sono oggi gazzelle. Il primo, l'assoluta importanza di accompagnare a un'eccellente tecnologia produttiva una cultura manageriale. Dobbiamo dirlo con chiarezza ai nostri ascoltatori, ancora il tema delle competenze manageriali è un tema che in molte imprese italiane stenta a emergere. Il secondo tema è, secondo me, la consapevolezza che dell'importanza di avvicinarsi sempre di più verso i mercati finali. Mi spiego, le azioni fatte da Campari e da Lavazza in queste settimane sono azioni che di fatto hanno due obiettivi fondamentali, e ha detto bene l'amministratore delegato, avvicinarsi alla distribuzione e quindi avere un contatto diretto con quello che è il consumatore, e in secondo luogo superare la logica di singola merceologia di singolo prodotto. La differenza la fa un'impresa che è in grado di erogare un sistema prodotto, cioè un insieme di prodotti che sono in grado di realizzare un'esperienza virtuosa, quindi Lavazza che combina quello che il caffè presenta al supermercato con quelle che sono le cialde presenti ad uso domestico e che necessariamente poi dovrà andare aprendo punti vendita, bar e quant'altro in questa logica di experience. Allo stesso modo abbiamo il Campari che accanto alle quelle che sono le bevande tradizionali introduce la dimensione di bevande a contenuto alcolico maggiore perché solo in questo modo si riesce a mantenere il contatto con quello che è il mercato finale. Quindi io credo che questi elementi siano elementi di forte consapevolezza da cui le altre imprese non gazzelle debbono trarre un insegnamento. Ecco, mi scusi, chiudendo sui settori, non ritiene che il settore che più manchi all'appello nella nostra capacità di fare acquisizioni all'estero sia quello della grande distribuzione, perché poi sappiamo che un problema grosso nel settore agroalimentare e vitivinicolo, meno nella moda per sua natura, ma insomma, è stato quello di non avere i punti vendita, banalmente, come Oscar Farinetti ci ha spiegato molte volte, e cioè di non essere presente. Quindi se tu hai grandi catene francesi che sono in Europa tra le più forti, è chiaro che giustamente loro ti piazzano i loro prodotti. Qualcuno ci raccontava la presenza di Carrefour e Auchan in Cina è incredibile, sono centinaia e centinaia di punti vendita, ma che ormai per i cinesi il vino vuol dire Francia e anche il formaggio vuol dire Francia. Questo poi è la conseguenza negativa per noi. Sì, noi paghiamo un differenziale in senso negativo di una grande distribuzione organizzata che in Italia si è organizzata ma che non ha avuto la capacità di avere una proiezione all'estero e quindi di fare da effetto di trascinamento che in modo magistrale Auchan e Carrefour tra gli altri hanno saputo generare. Questo è un grosso limite. Ancora una volta io credo che probabilmente ci sia nella dimensione si è ipervalorizzato da un lato il tema del mercato domestico pensando che fosse sufficiente, dall'altro lato si è confuso il tema dell'italianità e dell'identità italiana con una presenza prevalentemente locale. Purtroppo non ne hanno pagato solo le imprese della grande distribuzione, ma molte imprese, pensiamo a quelle del food, tra le altre dell'agroalimentare, che per esempio con riferimento al vino occorre dire ai nostri radioascoltatori che la Francia ha un 55% di quota di mercato in Cina contro il 5% delle imprese italiane. Questo è proprio anche per effetto di un'assenza. No, ma non che la Cina sia tutto il mercato americano, inteso come Canada e Stati Uniti, è molto di gran lunga più interessante come quello britannico, però il punto è che se ti manca la distribuzione, e lo affronteremo durante Vinitaly, quello che stanno facendo i grandi gruppi del vino per cercare di avere la loro linea di distribuzione, cioè in casa, non più affidandosi a un distributore straniero, è la nuova tendenza. Però quello lo puoi fare se hai delle grosse dimensioni, altrimenti dovresti essere agevolato se tu avessi anche le nostre Coop, Selunga, Conad e quant'altro all'estero, cosa che invece non è mai avvenuta. Grazie anche al professor Noci. Un'ultima curiosità, ma al Politecnico adesso le lezioni le fate in inglese? Perché so che c'erano stati dei docenti che si erano opposti, chiaramente allora pensando più ai casi loro che all'interesse degli studenti, ma le fate in inglese? Il 95% dei nostri corsi di laurea specialistica sono in lingua inglese, il 30% degli studenti sono studenti internazionali e i nostri studenti italiani ci premiano con valutazioni positive per il fatto che gli facciamo respirare un'atmosfera internazionale. Il Politecnico è entrato tra le prime 5 università tecniche d'Europa. Credo che questo risultato sia anche il frutto di una capacità di veicolare contenuti in lingua inglese ed essere aperti alle grandi alleanze internazionali. Grazie quindi a Giuliano Noci e adesso passiamo alla borsa. È un mondo difficile e vita intensa. Beh, perlomeno sul fronte degli SMS oggi veramente è difficile, SMS e WhatsApp. Ma andiamo alla borsa, una giornata di quelle non memorabili: meno 0,18% Milano, meno 0,22% Parigi, più 0,5% Francoforte, meno 0,17%, anzi scusatemi, l'Eurostox meno 0,17%, Londra più 0,60%, il Dow Jones meno 0,23%. Tutti in attesa, mi sembra di poter dire, della Federal Reserve, non tanto per un rialzo dei tassi che è ritenuto molto molto molto improbabile, solo il 4% degli intervistati lo ritiene probabile, ma per capire come verrà commentata la decisione di lasciare i tassi invariati dalla Janet Yellen, la numero uno della Federal Reserve americana. Dottor Filippo Diodovic, che è strategist per IG Market Italia, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, è questo il motivo per cui sono così, non dico piatti, ma insomma cauti oggi i mercati? Sì, diciamo che le borse sono proprio in attesa di questo evento molto importante, che non dovrebbe evidenziare grosse sorprese con la decisione di lasciare i tassi invariati, ma saranno proprio importanti le parole della Yellen nella conferenza stampa e soprattutto anche le proiezioni economiche che verranno annesse al comunicato stampa della commissione operativa, dove verranno mostrati le stime di ogni governatore centrale sul livello futuro dei tassi di interesse. E questo darà un'idea se la Federal Reserve quest'anno rialzerà i tassi per altre volte, molto probabilmente dovrebbero essere due volte, e poi che cosa farà anche nei prossimi anni. Quindi ecco, è un elemento molto interessante per capire quali saranno le prossime azioni della Fed. Allora, dopo il traffico commentiamo alcuni titoli. Sì, saluto a chi ci ascolta dalla Svezia, da Bruxelles, poi adesso basta, oltre che Brasile, sennò diventa giochi senza frontiere. A chi mi dice invece, ma insomma, per lei è contento se noi andiamo all'estero e come faremo a misurare la nostra disoccupazione? No, guardi che non ha capito che andare a acquisire all'estero significa consolidare anche il gruppo in Italia, perché poi il fatturato si chiama fatturato consolidato. È ovvio che se compri un gruppo in Francia, come nel caso di Lavazza o di Campari, tieni l'occupazione in Francia, però poi il fatturato è quello del gruppo italiano. E sappiamo che serve per avere utili, dividendi, mantenere l'occupazione, e di solito la testa pensante, cioè le strategie e le analisi, si fanno nel paese in cui ha sede la holding, cioè la controllante, e quindi in Italia. Quindi è tutto l'opposto di quello che lei dice, perché se poi il gruppo italiano non fa acquisizioni all'estero e non raggiunge massa critica, viene poi comprato, e lì allora possono esserci soluzioni di altro genere. Comunque, traffico. Focus Economia. Allora, sui titoli invece, oggi bene Fiat più 2,50%, ci sono i dati sul mercato europeo che è cresciuto del 14% nel mese di febbraio delle immatricolazioni, e Fiat ha aumentato la sua quota ed è cresciuta più della media, più 22,4%. Bene anche Finmeccanica, domani c'è l'assemblea, se non ricordo male, mi sembra positivo l'orientamento. Sì, diciamo che questi sono sicuramente dei titoli che sono mossi molto bene. Fiat è quello che ha evidenziato, diciamo, uno dei rialzi maggiori proprio per le immatricolazioni, che sono state molto, molto positive, sia col marchio Fiat, col marchio Jeep, che sono saliti in maniera importante, sono riusciti a fare una performance migliore del mercato. Oggi è stato una buona seduta per tutto riguardo il settore auto, questo anche perché ci sono state, diciamo, la conferenza stampa dell'amministratore delegato di BMW, che ha evidenziato i positivi risultati, e quindi anche tutto il settore auto europeo ha evidenziato grossi guadagni. Lo stesso vale anche per Finmeccanica, che dovrebbe avere l'assemblea per l'approvazione, insomma, dei risultati, e questo ha portato, diciamo, positività sul gruppo. Ancora tra chi invece oggi non va bene: Banco Popolare meno 3,30, Intesa San Paolo meno 2,20, Luxottica meno 2, Mediolanum meno 1,60 e Telecom più 1,20 come UbiBanca e Snam. Devo dire che Monte dei Paschi, sull'ipotesi di un ingresso del governo, si è mosso poco oggi, anzi niente, 0,08%. Si è mosso invece il gruppo Fincantieri, che è stato premiato per le acquisizioni annunciate. Infatti era più che positivo oggi in borsa, costruirà infatti 4 navi da crociera la norvegese Vard Holdings, che è controllata dalla nostra Fincantieri, a proposito di italiani che controllano gruppi stranieri. MNC più 9,60, Safebag più 9,20, Reply più 8,70, Seat più 7,6%, i migliori. I peggiori: Boero Bartolomeo meno 7,60, Italia Independent meno 6,30, Deutsche Bank meno 4,80%. Allora, grazie anche Filippo Diodovic, e andiamo sulla Gran Bretagna, o meglio su Londra, per le nozze a questo punto ufficializzate tra la borsa di Londra e la borsa di Francoforte. Oggi faccio il resoconto sull'economia che prevediamo crescerà più velocemente di ogni altra grande economia mondiale. Vi riferisco di un mercato del lavoro che sta creando la maggiore occupazione della nostra storia. Vi riferisco di un deficit sceso di 2/3, che cala ogni anno, e confermo, è sulla via di un surplus di bilancio. La nostra economia è più forte perché abbiamo affrontato i problemi del paese e abbiamo preso decisioni difficili. L'economia sta crescendo perché non abbiamo cercato soluzioni a breve termine, ma scelto un percorso di lungo termine. La nostra economia è forte perché, nonostante le sfide o i venti contrari, abbiamo proseguito sul nostro cammino. Ma devo dirvi che proprio ora dobbiamo affrontare queste sfide. Ci sono turbolenze sui mercati finanziari e l'economia mondiale è debole. Ciò costituisce un cocktail di rischi che la Gran Bretagna è ben preparata ad affrontare se agiamo ora invece di pagare dopo. Certo, non siamo immuni da rallentamenti e shock, ma non siamo inermi. Possiamo scegliere se aggiungere incertezza o essere una forza per la stabilità. Con questa finanziaria scegliamo di mettere la stabilità al primo posto. Con questa finanziaria scegliamo di dare priorità alla prossima generazione. Scegliamo di agire come dovrebbero sempre fare i conservatori, ossia avere conti pubblici a posto, tasse più basse per le imprese per creare posti di lavoro e investimenti per costruire abitazioni e infrastrutture. Investment to build homes and infrastructure. Così il cancelliere, lo scacchiere, come si chiama in Gran Bretagna, il ministro dell'economia, mi riferisco a George Osborne, dicendo che l'economia è forte ma ci sono venti contrari, ha annunciato tagli da qua al 2020 alla spesa pubblica per 4 miliardi e 400 milioni di euro, e ha detto: attenzione, il rischio se usciamo dall'Unione Europea è molto alto visti i venti che soffiano, venti preoccupanti, venti contrari che soffiano sull'economia. Allora, Leonardo Maisano, che è il corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, buonasera Leonardo. Buonasera a voi. Chiedo, come si tiene assieme una Gran Bretagna che rischia di uscire dall'Unione Europea, con grossa preoccupazione della City, degli industriali britannici, con una borsa di Londra, quindi la City, che si fonde con Francoforte? Il terzo tentativo stavolta è andato in porto dopo quello del 2000-2005, ed è insomma la più grande operazione da quella che mise assieme il New York Stock Exchange con Euronext. Come stanno assieme le due cose? No, beh, innanzitutto una premessa, perché non è detto che questo sia l'ultimo capitolo, perché bisogna vedere che cosa faranno gli americani, che potrebbero rilanciare su questa offerta. Tutto questo è un'ipotesi. Oggi c'è stato, come dicevi giustamente, un passaggio chiave, cioè con la formalizzazione dell'intesa tra tedeschi tedeschi e inglesi. Come questa cosa si declina con il Brexit o con il rischio di Brexit, cioè di uscita della Gran Bretagna nel referendum, ne ho parlato proprio oggi con Xavier Olé, l'amministratore delegato del London Stock Exchange, e dice che l'accordo comunque va avanti, l'intesa va comunque avanti, perché comunque ci vorranno 2 o 3 anni per prima che, in caso di uscita della Gran Bretagna, si possano risolvere tutti i negoziati. Come dire, ha lasciato intendere, saremo in un altro mondo in cui non sapremo neanche più che cos'è l'Unione Europea e se l'Unione Europea sarà in grado di resistere all'impatto di un Brexit, quindi è inutile pregiudicare questo deal con scenari futuri. Per cui lo dico, insomma, noi guardiamo diciamo, anche alle prospettive. Quali sono i vantaggi, perché ce lo chiedono gli ascoltatori, nel fondere due borse? Che tra l'altro non sono solo due, perché il London Stock Exchange ha anche Milano dentro, per cui anche la borsa di Milano. Esatto, sono quella di creare grandi sinergie. Tieni presente che le strutture rimarranno e le piattaforme rimarranno indipendenti, cioè non ci sarà una fusione delle varie linee di business. Continuerà. Però ci saranno, come dire, delle sinergie. Immaginiamo soltanto i collaterali sul clearing che sono stati imposti adesso dai regolatori dopo la crisi del 2008, che sono molto più elevati. Lì si potrebbero trovare delle sinergie e delle capacità di, come dire, di fare margini ulteriori, che è quello che viene considerata la ragione più importante di questa operazione. Per cui non le piattaforme, diciamo, ma i sistemi operativi e il resto, ma ci sarà un risparmio? Si parla di un risparmio di circa 450 milioni di dollari all'anno, di euro all'anno, che dovrebbero essere soprattutto nascere non da tagli di personale, eccetera, ma da risparmio sull'integrazione tecnologica. E quindi la parte, diciamo, le sinergie sulla parte di piattaforma tecnologica. Grazie anche a Leonardo Maisano in collegamento con noi da Londra, poi insomma di Gran Bretagna parleremo a lungo, più ci avviciniamo al famoso referendum britannico. Intanto grazie, ed è veramente tutto per questa puntata da Sebastiano Berigioni. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.